Radio 24 Reportage. Pharaonic Black Bloc, la rabbia della rivoluzione, di Giampaolo Musumeci. Dopo i furiosi scontri di fine gennaio al Cairo, a Piazza Tahrir, ma soprattutto davanti al palazzo presidenziale, esercito e forze di sicurezza egiziane si sono trovate di fronte un nuovo nemico di piazza. Gruppi di giovani vestiti di nero, con indosso una maschera. I Black Bloc egiziani hanno scatenato la curiosità e l'interesse dei media, degli analisti e dei servizi segreti di Mohamed Morsi. Difficile inquadrare il fenomeno, quanto sia spontaneo, quanto sia organizzato, ma una cosa è certa: i Black Bloc hanno raggiunto il loro scopo, visibilità e attenzione mediatica. Hanno guadagnato una ribalta, hanno dato la sensazione che qualcosa di nuovo si agiti nelle piazze e nelle strade egiziane. Port Said, Alessandria, Cairo. In taxi, lungo le strade della capitale. Che cosa sa dei Black Bloc? Sono giovani e nessuno sa chi siano, a chi appartengano, da dove vengano. Sappiamo solo che proteggono i ribelli. E le piacciono? No, non fanno nulla di male. Io non li odio. E credo che nessuno tra la gente li odi. Un conto è dire che nessuno li odia. Un altro conto è dire invece che tutti li amano. A me piacciono. Le posso chiedere quanti anni ha? Quanti anni ho? 32. E da quanti anni fa il tassista? Da 14 anni. Da qualche parte in centro città, dopo lunghe ricerche, riusciamo a incontrare un uomo che dice di essere un Black Bloc. A riprova mostra maschere nere, la t-shirt sotto i vestiti è nera, mostra ferite, segni degli scontri, bottiglie pronte per confezionare molotov, stoppini, griglie di ferro acuminate per bloccare i veicoli della polizia forando le gomme, e tutto il necessario per la guerriglia urbana. A lui chiediamo quali sono gli obiettivi dei Black Bloc. L'importante per noi è difendere la rivoluzione e i ribelli. Prima che lasciassimo le nostre case per venire qui a Tahrir, sapevamo quello che stava accadendo. E quando ci siamo mostrati con questi abiti neri, il governo si è molto spaventato, ha paura di noi. Black Bloc è un'idea. Conosciamo i fratelli musulmani molto bene. Sappiamo tutto di loro. Cosa pensano, cosa fanno, tutto. Perché dormivamo accanto a loro. Ma quella dei Black Bloc è soprattutto una strategia, un'idea. La seconda domanda è come si muovono sul terreno i gruppi di Black Bloc. La nostra principale tattica è la difesa. Quando la polizia e l'esercito attaccano, noi agiamo come un cuscinetto tra l'esercito e i ribelli e respingiamo l'assalto per difendere i ragazzi della piazza. C'è un ragazzo di cui si parlava ieri su Facebook, si chiama Safati Ghazi, è uno degli islamisti. E ieri c'era scritto che un ragazzo era stato scoperto mentre faceva qualcosa di male a delle ragazze qui a Tahrir e che questo Safati Ghazi aveva pagato 3.000 pound egiziani per farlo. E quando la notizia è iniziata a circolare, Safati ha preso la moglie e i suoi figli ed è scappato in Arabia Saudita. Sono stato io che l'ho aiutato a fuggire, perché i ragazzi lo volevano ammazzare qui a Tahrir. Gli ho salvato la vita e l'ho salvata anche a Beltaghi, uno dei leader dei fratelli musulmani. A questo punto la domanda nasce spontanea. Qual è la differenza tra un Black Bloc e un semplice manifestante? Non c'è differenza, siamo uguali. Black Bloc è un'idea. Abbiamo avuto questa idea perché conosciamo esattamente i fratelli musulmani, i salafiti e tutti questi islamisti. Li conosciamo molto bene, come ragionano, da dove arrivano, come vivono e cosa li spaventa. Lo sappiamo perché li conosciamo. Così abbiamo importato questa idea perché sappiamo che questa idea li farà molto spaventare. È stata la cosa giusta da fare. Ad esempio, il comandante di una stazione di polizia ha chiamato Sharif, che assieme al suo gruppo protegge la piazza da prima dei Black Bloc, per informarlo che qualcuno stava rubando dentro al Museo di Storia Egizia, qui, a Piazza Tahrir. Allora Sharif ha preso i suoi, i soldati della rivoluzione, e anche altri gruppi di Black Bloc, andarono al museo per proteggerlo. Ma quando i giornalisti hanno raccontato questa storia, hanno detto solo che i Black Bloc avevano salvato il museo. e in questo modo ci hanno resi celebri. Come nasce, chiediamo, l'idea di importare in Egitto i Black Bloc? L'idea ci è venuta leggendo, guardando la TV e informandoci. Abbiamo preso l'idea della maschera dei Black Bloc dal film. L'abbiamo modificata e l'abbiamo dipinta di nero. Ci chiediamo se esista qualche connessione con i Black Bloc europei. La risposta è lapidaria, nessuna connessione, anzi, l'esponente rivendica l'autonomia del movimento egiziano. Noi siamo Pharaonic Black Bloc, Black Bloc che hanno 7.000 anni di storia. E sentite che cosa aggiunge un collega vestito di nero che richiama i principi della rivoluzione e dello spirito rivoluzionario. Questa è un'azione universale, non un'azione locale. Quando è iniziata la rivoluzione, l'esercito e la polizia presidenziali erano tutti contro la popolazione. Ma la gente non ha voluto lasciare piazza Tahrir. E tutti i ribelli sentono che c'è qualcosa di sacro che li trattiene qui nella piazza. Come sono arrivati a Tahrir? Nessuno lo sa, perché non era una cosa pianificata. È successo e basta. Non ci sono regole, non ci sono comandanti che danno ordini a questi ragazzi. E Dio fa sì che i ribelli si amino gli uni con gli altri. Anche se sono diversi, cristiani, musulmani, eccetera, islamisti e non. Tutti si amano a Tahrir. Questa è la cosa sacra, che arriva da Dio, voluta da Dio, e proprio per questo il profeta sa che morsi cadrà. Vicino alla sede della blasonata squadra di calcio di El Ahly, incontriamo Yuri, capo degli Ultras. In alcune foto, alcuni Black Bloc portavano sulla maschera il logo della squadra di El Ahly. Yuri esclude alcun rapporto con loro, ma conferma che alcuni di essi hanno cercato un contatto. Yuri però apre uno scenario diverso sui Black Bloc. Non sappiamo chi c'è dietro di loro. Noi leggiamo nel presente, cerchiamo di capire cosa succede. Secondo noi, quel giorno, i Black Bloc erano lì apposta per far credere di essere il nostro braccio armato e farci aggredire dall'esercito. Se fosse successo qualcosa, sarebbero stati il pretesto per darci contro. Ma siccome noi quel giorno siamo stati neutrali, allora i piani dei Black Bloc sono falliti, li hanno arrestati. Se i Black Bloc non hanno niente da nascondere, perché si coprono il viso? Noi Ultras non ci nascondiamo, tutti sanno chi siamo, giriamo a volto scoperto. Ecco perché diciamo che i Black Bloc sono lo strumento che il governo o qualcun altro vuole utilizzare per darci contro, e quando vogliono colpirci, colpiscono loro e dicono di aver colpito noi, ma quello che dicono non è vero. Lasciamo il Cairo con più dubbi sul fenomeno Black Bloc che risposte. Chi sono veramente? Quanto quelli incontrati sono realmente motori del fenomeno? E ancora, non saranno semplicemente manifestanti che hanno imitato altri manifestanti vestiti di nero? E se così fosse, sono Black Bloc pure loro o sono imitatori? E anche se fosse così, cosa cambierebbe ai loro fini? A Port Said incontriamo un giovane ben piazzato fisicamente. Colto, parla pacato, dimostra una grande conoscenza delle armi. Dice di essere un Black Bloc. Non accetta di registrare la sua voce, però parla. E aggiunge sfumature e dettagli al fenomeno. Racconta che le milizie dei Fratelli Musulmani stanno prendendo le strade, soprattutto a Port Said, e la polizia non si vede più. Sussurra che alcune gang criminali responsabili dei disordini di fine gennaio vengono dal vicino villaggio di Manzala. Siamo su un vicino lago. Ex pescatori che con la crisi si sono riciclati come mercenari, dice, e qualcuno addirittura parla di milizie legate ad Hamas, ma è impossibile per noi verificare le informazioni. La disponibilità di armi comunque nella zona è alta e basta pagare. 1.000 euro per una pistola, 5.000 per una K-47, la metà per un M16, di cui però è assai difficile trovare munizioni. Il nostro contatto a Port Said dice che dal porto, il principale, egiziano, arrivano anche mitragliatrici pesanti, quelle da 23 mm che ci siamo abituati a riconoscere guardando le immagini della guerra libica. La gente però, racconta, a Port Said preferisce le pistole perché si nascondono più facilmente. Lui stesso mi mostra alcune foto mentre, vestito di nero, impugna una beretta. Alcuni Black Bloc sanno usare le armi, racconta, e le hanno. Ma Black Bloc è un'idea che tu puoi abbracciare. Se vai in TV dicendo io rappresento il movimento, non lo sei davvero. Tu lo sei e basta, racconta. Quando ci sono incidenti, ti armi, ti vesti di nero e agisci. Ci Ci vuole qualcuno che difenda i manifestanti dalle milizie dei fratelli musulmani. La polizia non lo fa. È una cosa spontanea, racconta il ragazzo di Port Said. Non ci mettiamo d'accordo, addirittura non ci conosciamo fra noi e nessuno sa quanti siamo. Con il risultato che il gruppo dei Black Bloc di Port Said è un'entità sfuggente, il cui numero di membri è incalcolabile, la cui identità non è verificabile nemmeno dagli stessi membri. Il punto di forza è proprio questo. Nessuno sa chi sono, chiunque può entrare. Il punto di debolezza? Il medesimo. Non c'è controllo. Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.